Vissi d'arte, vissi, rubrica di donne, vita e arte. Il titolo della puntata odierna è Non me ne intendo di pittura, ma lei me la fa amare, Elisabeth Vigée-Lebrun. Benvenute e benvenuti alla seconda puntata della nuova serie di Vissi d'arte Vissi, l'appuntamento mensile con le arti visive e le artiste. Non me ne intendo di pittura, ma lei me la fa amare. L'artista con cui il re di Francia Luigi XVI, parlando, disse questa frase, è Elisabeth Vigée-Lebrun, una delle pittrici più amate e conosciute alla moda del XVIII secolo, ma anche del primo Ottocento. Nata a Parigi nel 1755 da una famiglia umile ma caratterizzata dall'affetto, ebbe la fortuna di avere due genitori che, riconoscendo in lei precoci doti artistiche, le disse il padre Louis Vigée: sarai pittrice, bambina mia, o nessun altro mai lo sarà, la favorirono e cercarono di coltivarne il talento. Il padre in particolare era un pittore ritrattista a pastello di modeste capacità, sebbene riuscisse a mantenere la sua famiglia con il lavoro, ed era soprattutto un uomo colto e di ottimo carattere, che seppe trasmettere alla figlia e al secondogenito Etienne un'autentica gioia di vivere. Elisabeth comincia dunque a studiare i rudimenti dell'arte col padre, riceve poi lezioni supplementari da alcuni amici paterni, pittura d'olio dal pittore Davesne, disegno da Gabriel Briard. Ma la morte del padre, quando Elisabeth ha solo i 12 anni, non c'è più il tempo o i soldi per continuare un'educazione artistica che comunque, essendo una donna, non le avrebbe mai permesso di accedere ai corsi dell'Académie Royale des Beaux-Arts. Così, scrive nelle sue godibili memorie, fece tesoro del consiglio impartitole dal celebre pittore Joseph Vernet: non segua nessun sistema di scuola, consulti solo le opere dei grandi maestri italiani, quelle dei maestri fiamminghi, ma lavori soprattutto il più possibile dal vero. La natura è il primo di tutti i maestri. Mentre la madre deve risposarsi con ricco Jacques-François Lesèvre contro la volontà di Elisabeth per avere una stabilità economica sufficiente, la fanciulla comincia dunque a girare nelle collezioni private, per la maggior parte per consuetudine aperta al pubblico, e a frequentare le esposizioni pubbliche dei salon, ove ha il modo di aggiornarsi precocemente sulla pittura contemporanea. A 15 anni è pronta per proporre le sue opere sul mercato. Come scrive uno dei suoi primi studiosi moderni, Joseph Baillo, ella è dotata di un'acuta memoria visiva, di un intuito per trovare delle pose nuove, di un istinto infallibile per i costumi e i drappeggi e della capacità di cogliere con relativa facilità le somiglianze. Insomma, ha tutto ciò che serve per essere notata, unita a una notevole bellezza e una certa eleganza e al contempo freschezza nei modi che la faranno entrare nelle grazie di Maria Antonietta, regina di Francia. Deve darsi da fare. È una donna e ciò la penalizza in partenza e deve sgomitare nel mercato d'arte parigino, all'epoca uno dei più esigenti e difficili d'Europa. Grazie alle conoscenze dell'odiato patrigno, uomo sgradevole certo ma opportunamente gioielliere, ha modo di entrare in contatto con una clientela altolocata. Madame Duverdon, moglie di un potente appaltatore di imposte dell'alta borghesia, è tra le sue prime clienti. Ma un ruolo importante è certo giocato dalla duchessa di Chartres, Luisa Maria Adelaide di Borbone, successivamente duchessa d'Orléans e inconsapevole madre dell'ultimo re di Francia, Luigi Filippo I. Tuttavia, all'epoca, le tormente della rivoluzione e della restaurazione sono ancora lontane. Thank you. Elisabeth Vigée comincia ad essere conosciuta. Il suo giro di clienti si allarga. Comincia a rifiutare commesse e richieste di ritratti, specie da parte di uomini che tendono, come spesso accade, a confondere l'essere una donna attiva nella società con l'essere disponibile. Ma l'artista è molto attenta a curare la sua immagine pubblica, che deve difendere dalle calunnie di coloro che non possono sopportare che una donna giovane, talentuosa e per di più bella abbia successo e guadagni del denaro. Nel 1775 offre due ritratti del Cardinal de Fleury e dello scrittore La Bruyère all'Académie Royale, che la ammette alle sedute pubbliche. Poi entrerà a farne parte, con tutte le limitazioni del caso, ovviamente, essendo ella una donna, quindi non potrà partecipare a diverse occasioni sociali riservate ai membri e non avrà diritto di voto. È però un riconoscimento importante e sull'occasione del dono possiamo leggere addirittura una lettera del filosofo D'Alembert, allora segretario a vita dell'Académie. Mademoiselle, l'Accademia francese ha ricevuto con tutta la possibile riconoscenza la gentilissima lettera che lei ha voluto scrivere e i bei ritratti di Fleury e della Bruyère che lei ha voluto gentilmente mandare perché trovassero il loro posto nella sala delle riunioni, dove da molto lei desiderava vederli. Questi due ritratti, che rappresentano due uomini il cui nome è caro all'Accademia, richiameranno sempre, cara mademoiselle, il ricordo di quanto essa le deve ed è lusingatissima di dover a lei. Saranno per di più alla vista durevoli monumenti dei suoi rari talenti, conosciuti per pubblica fama e in lei messi in risalto ancor di più dall'intelligenza, dalla grazia, dalla più gentile modestia. La compagnia, nel desiderio di corrispondere a un comportamento cortese quanto il suo e nel modo che per lei possa essere il più gradito, la prega di voler accettare la partecipazione a tutte le assemblee pubbliche di questa Accademia. Questo l'Accademia ha deciso nella sua assemblea di ieri, con un'anime delibera che, seduta stante, è stata inserita nei suoi registri e di cui detta Accademia mi ha incaricato di trasmetterle notizia unitamente ai suoi ringraziamenti. Questo incarico mi onora tanto più che mi offre l'occasione, mademoiselle, di confermarle la particolare stima che da molto tempo io nutro per lei e per il suo talento, condividendola con tutte le persone di qualità. Ho l'onore di essere, rispettosamente, mademoiselle, il suo umilissimo e ubbidientissimo servitore, D'Alembert. Nell'Académie Royale, Elisabeth trova anche la sua più diretta rivale, Madame Adélaïde la Bilgouillard, che presto comincerà a farle una guerra spietata cercando di contrastarne la carriera a corte. Ahimè, Madame Adélaïde dovrà accontentarsi di divenire la ritrattista delle Grandes Dames di Francia, vale a dire le austere zie e sorelle del re Luigi XVI. Le due artiste saranno dunque divise non solo dall'arte, ma anche dalla politica di corte e dai delicati equilibri diplomatici ed etichetta che la governano. La corte non è tanto lontana. In realtà Elisabeth ha già conosciuto, ancora adolescente, la giovane principessa, che poi sarà regina, arrivata in Francia nel 1770 per sposare il delfino Luigi. È lei stessa a raccontare il primo incontro nelle sue memorie. Dapprima andammo a Marly-le-Roi, ove per la prima volta ebbi l'idea di quello che potesse essere un soggiorno incantevole. Da ogni parte del castello, che era stupendo, si innalzavano sei padiglioni che comunicavano tra loro mediante pergolati di gelsomino e di caprifoglio. Acque magnifiche, prorompenti a cascate dall'alto di una montagna che si ergeva dietro al castello, alimentavano un immenso canale sul quale nuotavano cigni. Alberi bellissimi, sontuosa vegetazione, bacini d'acqua, zampilli, uno dei quali si innalzava a un'altezza così straordinaria da perdersi alla vista. Tutto era grande, regale, tutto parlava di Luigi XIV. Alla vista di quel luogo di soggiorno stupendo mi fece allora una così grande impressione che dopo il mio matrimonio sono spesso tornata a Marly. Una mattina vi incontrai la regina Maria Antonietta, che passeggiava per il parco con molte dame della propria corte. Tutte erano vestite di bianco e così giovani e belle da sembrare un'apparizione. Io ero con mia madre e mi stavo allontanando quando la regina ebbe la bontà di fermarmi, invitandomi a continuare la passeggiata ovunque mi sarebbe piaciuto. Ahimè, quando sono tornata in Francia nel 1802, sono corsa a rivedere il mio nobile e ridente Marly. Il palazzo, gli alberi, le cascate, i bacini d'acqua, tutto era scomparso. Ho trovato solo una pietra che mi sembrava segnasse il centro del salone. Nello stesso anno dell'ammissione all'Académie, Elizabeth fa un incontro che nel bene o nel male, in egual misura forse, sarà fondamentale per la sua carriera e la sua vita privata. Conosce Jean-Baptiste Pierre Lebrun, che sposerà un anno dopo. Un matrimonio di simpatia, se non d'amore, e di interesse. Un matrimonio che lo storico Francis Haskell definì immensamente complesso. Nelle sue memorie l'artista non ne parlerà bene, a dir la verità, mettendone in evidenza l'attrazione verso le donne e il gioco, ma certo Lebrun fu fondamentale nell'ascesa della talentuosissima moglie. Grande conoscitore e scrittore d'arte, e a lui attribuiamo ad esempio il merito della riscoperta in Francia delle opere di Vermeer, il grande olandese, collezionista, curatore di importanti collezioni private, è un mediocre pittore ma ottimo mercante per la moglie e altri artisti. Un matrimonio insomma d'ambizione, di interesse, ma anche di stima. Ed è forse interessante leggerne, le memorie del marito, che per una volta sembrano forse leggermente più sincere o almeno più lucide di quelle di Elizabeth. Allora, egli scrive: «La sorte che me la destinava per moglie le riservava i mezzi di coltivare un'arte alla quale mi ero dedicato io stesso. Grazie a 30 anni di commercio potevo metterle sotto gli occhi tutto ciò che le diverse scuole dei maestri più famosi offrono di più bello e di più prezioso nei diversi generi. Lavorammo dunque insieme nell'emulazione reciproca e ciò che avevo previsto accadde. Continuamente incoraggiata nel suo amore per la pittura, a contatto con i bei quadri che riempivano i miei magazzini, con i capolavori dei Rubens, dei Rembrandt, dei Guidi, degli Albani, la cittadina Lebrun attinse a quel grado di perfezione che le ha fatto assegnare da vari anni uno dei primi posti tra i grandi pittori nella nostra scuola». Dal matrimonio con Jean-Baptiste Pierre Lebrun nasce nel 1780 Jean-Julie Louise, una bellissima bambina che diventerà negli autoritratti materni elemento di quel complesso codice seduttivo, comunicativo, pubblicitario magistralmente messo in atto dalla pittrice per aumentare la cerchia di conoscenze e clienti. Julie crescerà, sarà una bellissima, sensuale adolescente, protagonista di molti quadri materni come La Bagnante, una giovane fanciulla dotata di un certo talento artistico, e su di lei Elizabeth farà molti progetti. Progetti brutalmente spezzati da un matrimonio affrettato, imposto alla madre in disaccordo, stretto per capriccio d'amore, immediatamente sfumato nel distacco e nella malsopportazione reciproca tra l'umorale Julie e suo marito, un certo Gaëtan Bertrand Nigri, conosciuto all'epoca del soggiorno in Russia e presto abbandonato. Ma al momento, nell'infanzia di Julie, è tutto felice, luminoso, arioso. La madre studia, lavora, affina la sua arte, viaggia e impara con il marito a guardare con occhio critico le opere dei grandi, elaborandone un pensiero critico e autonomo. Un pensiero critico che l'aiuterà, ad esempio, avendo appreso la tecnica pittorica dall'osservazione dei maestri, a utilizzarne esplicitamente e sapientemente taluni elementi in funzione di illustrare le proprie conoscenze estetiche e artistiche. come quando si rappresenterà nel celebre autoritratto con tavolozza e cappello di paglia del 1782, con il cappello che Rubens dipinse sulla testa della bella moglie Hélène Fourmin in un celebre quadro. L'arte di Elisabeth Vigée-Lebrun è l'epitome del secondo Settecento, quel momento psicologico del Settecento d'Ancien Régime che Goncourt individuano come l'attimo in cui all'idea lieve del piacere succede l'idea grave della felicità. Elisabeth è maestra nell'arte dell'osservazione psicologica, un'arte che nel clima malizioso, pettegolo e raffinatissimo della corte francese è indispensabile al pari della ricchezza o del buon gusto o della nobiltà del sangue. Ha dalla sua un acuto senso estetico e una vera passione per le mode estetiche e culturali che le permettono di rappresentare i suoi personaggi, uomini e donne, ora su sfondi agresti, ora con riferimenti all'anglomania, ora con caratterizzazioni all'antica, ora con quel punto di sentimento e sensibilità che il grande filosofo Rousseau ha indicato come strada alla felicità e alla completezza di sé. Scrive su di lei la grande francesista Benedetta Craveri: percorrendo la sua galleria di ritratti è possibile cogliere con la massima evidenza quell'inestricabile intreccio di futilità, d'artificio, d'estenuate eleganze al tempo stesso, di ansia di vita morale, di innocenza, di fiducia nell'avvenire che caratterizzano il tramonto dell'Ancien Régime. Le donne e la bellezza femminile sono la grande ispirazione di Elisabeth e un secolo dopo Pierre de Nolhac scriverà: solo ciò che è grazioso ispira Madame Vigée-Lebrun e in caso contrario sa come porvi rimedio. La verosimiglianza dei suoi ritratti è testimoniata da più parti. Basta dunque aggiungere con discrezione occhi luminosi, chiome più ricche, un colorito roseo radioso, chiunque non può che esserne migliorato, e trovare piacevoli anche età avanzate o attitudini fisiche sgraziate. È ancora Pierre de Nolhac a scrivere che il suo successo nasce dall'aver capito meravigliosamente le donne della sua generazione, dall'averle rappresentate come sognavano di essere. Federico Zeri, da parte sua, scriverà che l'intelligenza della formula ritrattistica di Elisabeth si fa sentire persino ai nostri giorni, in certi nomi illustri dell'obiettivo fotografico, specie anglosassone. La pittrice non si limita a registrare la moda, ma la coglie sul nascere e spesso la precede. È lei la prima, ad esempio, a utilizzare fasce e veli per avvolgere i capelli delle sue modelle, rinunciando alle parrucche e alle ciprie, una moda che ella segue personalmente, mettendo in risalto i suoi folti riccioli bruni. Elisabeth è il manifesto vivente della sua arte, elegante, piacevole, seducente, sensuale ma senza perdere stile, garbata e briosa. L'uso degli scialli drappeggiati, l'utilizzo di leggeri abiti di batista importati dall'Inghilterra, l'adozione precoce di fogge sciolte che anticipano lo stile impero, tutto piace alle sue clienti e passa dalla tela alla vita. Anche il travestimento è un gioco eccitante per le sue clienti e siamo pur sempre nell'ambiente delle romantiche fughe di Maria Antonietta vestita da pastorella nel suo Amò, la fattoria costruita nei severi giardini di Versailles. Anche gli uomini si trovano a proprio agio con lei, come nel celebre ritratto del grande amico e pittore Hubert Robert, la cui corpulenta figura diventa simbolo dell'irruenza dell'arte, o come nell'eccellente ritratto di Giovanni Paisiello al pianoforte, di cui il grande pittore Jacques-Louis David, il pittore della rivoluzione, dirà in occasione di un'esposizione pubblica con opere di entrambi: «Si direbbe che il mio quadro sia stato dipinto da una donna e il suo da un uomo». Un complimento piuttosto discutibile in effetti, e che ricorda soprattutto che anche Elisabeth Vigée Lebrun, come altre artiste, dovette lottare contro il sospetto che ella si limitasse a firmare opere eseguite da un uomo necessariamente più bravo ed esperto. Elisabeth lavora, dipinge, tiene un salotto che diventa presto celebre, sul quale possiamo affidarci ancora ai ricordi del marito. La cittadina Lebrun, seguendo il suo gusto per l'arte, riuniva a casa sua una volta a settimana pittori, scrittori, architetti e musicisti. Poteva essere interessante vedere riuniti in un luogo modesto uomini eminenti in tutti i campi, sentire Vernet, i Delille, i Lebrun, i Chamfort applaudire la musica ammaliante dei Piccinni, dei Sacchini, dei Gretry, dei Martini e l'esecuzione brillante e superiore dei Viotti, dei Duport e dei Jason. Era una sorta di lycée aperto a tutti i talenti e da cui era bandita ogni formalità. Erano le arti che fraternizzavano fra di loro e coloro tra questi artisti che professavano la musica e non si spostavano mai senza esigere un diritto legittimo di presenza, sembravano troppo felici di fare senza alcuna ragione di interesse l'omaggio dei loro talenti a una donna che ne sentiva il valore e che li ripagava del loro sacrificio con l'espressione sincera del piacere che provava. La notizia dei concerti della cittadina Lebrun si diffuse presto in una città in cui tutto faceva notizia e dove il più piccolo episodio assumeva il carattere di un grande evento. Le persone che venivano designate come la bonne compagnie brigarono l'onore di essere invitate a quei concerti. Come si poteva dire loro di no, dal momento che si trattava delle stesse persone che utilizzavano i talenti della cittadina Lebrun? Il salotto smise allora di essere una piccola cerchia e i grandi, perché allora così li si qualificava, vi si recavano, trovando certo piacevole dimenticare il peso dell'etichetta e il disgusto di una brillante servitù a casa di una donna senza boria né pretese. Anni dopo, Talleyrand scriverà di quei fatidici anni Ottanta prima della tempesta. Chi non ha vissuto gli anni intorno al 1780 non ha conosciuto il piacere del vivere. E per Elisabeth, gli anni perfetti del piacere e del successo sono quelli dell'incontro con Maria Antonietta. Sarest du tot der Schmerzen, sarest du queste note meravigliose vi ricordo che siete in ascolto della rubrica Vissi d'arte, Vissi, dedicata questa sera alla pittrice francese Elisabeth Vigée-Lebrun. Torniamo agli anni Ottanta del Settecento e alla fatidica presentazione ufficiale a corte a Sua Maestà la Regina Maria Antonietta nel 1778. Comprendiamo perfettamente come le due giovani coetanee, hanno 23 anni, si comprendano perfettamente. Elisabeth è tutta fascino e grazia, qualità che trasudano sulle sue tele e ricoprono di una patina seducente e accattivante le sue modelle. Un anno dopo, 1779, ella comincerà il primo ritratto di Maria Antonietta, il primo di molti, come leggiamo nelle sue memorie. È nel 1779 che ho fatto per la prima volta il ritratto della regina, allora in tutto lo splendore della sua giovinezza e della sua bellezza. Maria Antonietta era alta, straordinariamente ben fatta, abbastanza in carne, ma non troppo. Aveva splendide mani, braccia, mani piccole di forma perfetta, piedi graziosi. Era la donna di Francia dal più bell'incedere. Teneva la testa molto alta, con una maestà che faceva riconoscere la sovrana in mezzo a tutta la sua corte, senza però che una tale maestà nuocesse minimamente a quanto di dolce e di benevolo avesse il suo aspetto. È insomma difficilissimo dare un'idea di tanta grazia e tanta nobiltà riunite insieme a chi non abbia visto la regina. Non aveva tratti regolari. Aveva ereditato dalla sua famiglia quell'ovale lungo e stretto del viso tipico delle sue origini austriache. Non aveva grandi occhi, erano quasi azzurri. Il suo sguardo era spiritoso e dolce, il naso sottile e grazioso, la bocca non troppo grande, sebbene le labbra fossero un po' marcate. Ma l'incarnato splendente era la connotazione più straordinaria del suo viso. Non ne ho mai visto uno così luminoso, e luminoso è la vera parola. Infatti la sua pelle era così trasparente da non prendere l'ombra. Non potevo quindi renderne il contrasto come avrei voluto. Mi difettavano i colori per dipingere quella freschezza, quei toni così fini, propri di quella deliziosa figura, che non ho ritrovato mai in nessun'altra donna. I rapporti con Maria Antonietta e il suo entourage diventano presto strettissimi, daranno vita a molti pettegolezzi, a molte insinuazioni, e intorno alla rivoluzione diventeranno manifesti capi d'accusa contro Elisabeth. Ma al momento danno piuttosto vita ad aneddoti molto curiosi come quelli ricordati da Elisabeth. Un giorno mi capitò di mancare all'appuntamento che la regina mi aveva fissato per una seduta. Ero allora molto avanti nella mia seconda gravidanza e mi ero sentita improvvisamente molto male. L'indomani con premura andai a Versailles per scusarmi. La regina non mi aspettava, aveva fatto attaccare il suo calesse per una passeggiata e proprio questo calesse fu la prima cosa che vidi entrando nel cortile del castello. Ciò non di meno salii per parlare ai valletti di camera. Uno dei due, Campan, mi ricevette freddamente e asciuttamente, dicendomi con un tono di collera e con voce stentorea: «Era ieri, madame, che sua maestà la aspettava, e certamente ora se ne va a spasso, e certamente non le concederà una seduta». Io rispondo che venivo solo a prendere gli ordini di sua maestà per un altro giorno. Egli va a trovare la regina, che mi fa tosto entrare nella sua camera. Sua maestà stava finendo la sua toilette. Aveva un libro in mano per far ripetere una lezione a sua figlia, la giovane madame. Il cuore mi batteva, avevo più paura che torto. La regina si girò verso di me e mi disse dolcemente: «L'ho aspettata tutta la mattina di ieri, cosa le è successo?» «Madame, purtroppo stava male e non ho potuto essere agli ordini di sua maestà. Vengo oggi per riceverli e me ne vado subito». «No, no, non se ne vada», riprese la regina, «non voglio che lei abbia fatto questo viaggio inutilmente». Dopo aver disdetto il suo calesse, mi concesse una seduta. Ricordo che nella fretta che avevo per corrispondere a tanta bontà afferrai la mia scatola di colori con tale irruenza che la rovesciai. Le mie pennellesse, i miei pennelli caddero sul parquet. Mi chinai per riparare la mia sbadataggine. «Lasci, lasci», disse la regina, «è troppo in avanti nella sua gravidanza per chinarsi». E sebbene io protestassi, raccolse ella tutto. Non possiamo notare come questo episodio rappresenti un po' la controparte femminile del celebre aneddoto dell'imperatore Carlo V che si china a raccogliere il pennello caduto dalle mani dell'anziano Tiziano. Virtù di sovrani, gloria d'artisti. L'ultimo ritratto della regina e dei suoi figli risale al 1788. La circostanza che nel 1789 morisse il delfino, figlio primogenito e futuro re, all'età di 7 anni, permise di salvare questa grande tela dalle ire dei rivoluzionari iconoclasti, poiché, per non turbare la regina, il quadro venne allontanato e relegato in un appartamento secondario di Versailles, da cui verrà riportato in pubblico solo molti anni dopo. Ancora oggi, nell'ex corte francese, è possibile vedere questo quadro e altri della nostra pittrice. 1789, anno della rivoluzione. Non possiamo certo chiedere a Madame Vigée-le-Brun di partecipare col cuore al furore della rivolta popolare. Questa figlia del popolo francese è ormai troppo coinvolta, professionalmente ed esistenzialmente, nell'ambiente di corte. Nell'estate 1789, Elisabeth è a Louvain, nel palazzo in cui da tempo vive l'antica amante di Luigi XV, Madame du Barry, alla quale sta facendo un ritratto. Quando il fragore dell'esplosione del 14 luglio arrivano a turbare la seduta di pittura, Madame du Barry si limita a osservare: ai tempi del re Luigi XV queste cose non sarebbero accadute. Malauguratamente, l'aplomb dell'anziana amante del re verrà travolto dalla furia rivoluzionaria. Minacciata da più parti, Elisabeth fugge portando con sé la figlia e pochi franchi. Lascia dietro di sé il marito, che saprà gestirsi bene e attraversare indenne, anzi molto rispettato, la rivoluzione. Lascia tutti i suoi guadagni nelle mani di lui, che ne è proprietario per legge. Lascia tutti i suoi quadri, che lui venderà intascandone il prezzo. Elisabeth comincia un lungo peregrinare per l'Europa. È in Italia che visita tutta. Passa dunque per Torino, poi per Parma, poi a Firenze, dove gode immensamente delle bellezze artistiche della città. In visita agli Uffizi viene richiesta dell'autoritratto e ne seguirà uno celeberrimo, magnifico, la grande cuffia candida e la splendida fusciacca fiammante sull'austero abito nero. Qui vede l'autoritratto di una celebre collega che poi frequenterà Roma, la pittrice svizzera Angelica Kaufmann, autoritratto del quale scrive: «Notai con un certo orgoglio in quella galleria il ritratto di Angelica Kaufmann, una gloria del nostro sesso». Dopo Roma visiterà anche Napoli, Venezia, poi passerà in Austria dove parlerà della regina rimasta prigioniera dei francesi, poi arriverà in Russia alla corte di Caterina II imperatrice di Russia, la grande Caterina, che ritrarrà, come molti membri della aristocrazia russa, ancora ignara del fatto che un secolo dopo subirà analoga sorte dei nobili francesi. Qui la figlia si sposerà nel 1800, matrimonio abbiamo visto assai sfortunato. Qui, nello stesso anno, apprenderà di poter rientrare in Francia, cosa che però farà solo 2 anni dopo, nel 1802. 13 anni in una fuga relativamente tranquilla, certo, protetta indiscutibilmente dalla sua arte, dalla sua professionalità eccezionale, dal suo carisma umano e artistico. Continua ad essere una delle ritrattiste più richieste e meglio pagate d'Europa e, almeno adesso, i suoi guadagni li gestisce lei. In tutti questi anni si rifiuterà di leggere le gazzette e di ascoltare le feroci notizie in arrivo dalla Francia e avrà un grave malore nell'apprendere la morte di molti suoi amici e protettori e della regina su tutti. Anni protetti, ma non per questo non dolorosi, anzi caratterizzati dall'ansia, dal risentimento e da una malinconia crescente. In Francia, ricomincerà il suo mestiere con una nuova aristocrazia al servizio di un nuovo potere. È però scioccata dalle differenze, dai nuovi costumi e della nuova etichetta di corte, che la trova rozza e mancante di savoir vivre. Quanto alla famiglia Bonaparte, chiamata nel 1805 a dipingere un ritratto di Caroline Murat, sorella di Napoleone, Elisabeth dirà: «Ho dipinto delle vere principesse, non mi hanno mai infastidita e non mi hanno mai fatto aspettare». In poche parole, ella non riesce a superare il trauma della perdita di un mondo ai suoi occhi dorato e soffre di una leggera forma di depressione. Dividendosi tra Parigi e Louvain, continua tuttavia a dipingere per molti committenti, viaggia molto a lungo in tutta Europa e perde presto il marito, da cui viveva opportunamente separata. Ciò accade nel 1813. Perde anche la figlia Julie nel 1819 e il fratello Etienne nel 1820. Lei morirà molto più tardi, alla bella età di 92 anni, amorevolmente assistita da un'affezionatissima nipote, figlia del fratello, che le funge da segretaria e da dama di compagnia. In età matura, Elisabeth Vigée-Lebrun scriverà le sue memorie, che possiamo leggere anche in traduzione italiana, ricordi, aneddoti narrati con quel tono aggraziato, lieve, posato, così tipicamente settecentesco ancora, ancora memore di quella joie de vivre che aveva caratterizzato la giovinezza e la gloria dell'artista, alla corte di Maria Antonietta. abbiamo ascoltato arie e brani di opere cantate da Maria Callas, Renata Tebaldi, Cecilia Bartoli, Emma Kirkby, Erika Miklosa. Segnala inoltre che la cantata eseguita da Emma Kirkby, Je demande à l'oiseau, è musicata dalla celebre compositrice statunitense Amy Beach. Nell'augurarvi buona serata vi ricordo i nostri appuntamenti: il primo martedì del mese con la rubrica di Varia Donnità, Tre civette sul Comò, e il terzo martedì del mese con le donne d'arte di Vissi d'arte, Vissi. Ci ritroveremo qui l'anno prossimo ormai, perciò vi auguro buone feste, ricordandovi che le trasmissioni del MFLA riprendono il 14 gennaio. A presto e grazie dell'ascolto.